La sequenza è 1, 4, 16, numero mancante, 256. Cercate di capire la regola che collega i numeri tra loro, così potrete trovare quello mancante.